deve forza perderti per sempre, o luce mia, a te verrà il mio palpito sotto qual ciel tu sia. Prestagio, lo spirito mortale, che il rivederti annunzia, quasi un desio fatale, come se fosse l'ultima. Del no.